Soffio che il vento si agita, mi sto pensando lontano da qua e da tutta la gente che ci abita. Ma so che il tuo nome mi seguirà e la mia coscienza non si pulirà, non si salverà. Scommettevo su una fine tragica. Io ti parlavo come fossi già mia, una vita chiusa in camera mia. Alle mie spalle ci hanno circondato, vuoi la guerra allora che guerra sia. Sì che ci penso, fin quasi a passo ma più che ti penso. Luce addosso mi illumino di mezzo, non potrei fermarmi, vincere in eterno tu. Calma quest'ansia che mi paralizza, il mio nemico è furbo ma ce la farò. Una pistola in mezzo all'immondizia nascosta come le emozioni che ho. Stavamo giocando ma non era un gioco, e ridi mentre prendo fuoco, come fosse un gioco. Ma tu, dimmi che tutte ste luci blu diventeranno luci a strobo, li spendo ora che posso. Ma se cala il silenzio, non lasciarmi da solo, non posso. Dove stai? Come stai? In stand by, da quando non ci sei più, da quando non ci sei tu. Fingo sia easy, sacrifico chi sono per chi diventerò. Riesci a capirmi? Sono fatto così, non provare a guarirmi. Tra noi scorre sangue, non feeling bad vibe. Tu camici e sti fili, se la notte porta consigli, sto sveglio, non riesco a sentirli mai. Me la sono sempre presa con me, anche quando la colpa è tua. I miei fratelli compatti con me, mi tengono in piedi quanto è dura. Vuoi sfidarci allora? No, no, non farlo. Non dico chi è il più forte, io vengo a dimostrarlo. Calma quest'ansia che mi paralizza, il mio nemico è furbo ma ce la farò. Una pistola in mezzo all'immondizia nascosta come le emozioni che ho. Stavamo giocando ma non era un gioco, e ridi mentre prendo fuoco, come fosse un gioco. Ma tu, dimmi che tutte ste luci blu diventeranno luci a strobo, li spendo ora che posso. Ma se cala il silenzio, non lasciarmi da solo, non posso. Dove stai?